got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan. No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, se è per questo, mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nutizzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così, quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi, quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, bentornati ancora una volta a questo appuntamento che vuole coniugare in maniera leggera i temi dell'identità, della cucina, della migrazione e soprattutto in questo caso parliamo di cibo, perché abbiamo come ospite una chef. Ambra Romani, benvenuta. Grazie, grazie mille dell'invito, buonasera a tutti. Ambra Romani è una chef che voi conoscerete se seguite... Se avete seguito in passato La prova del cuoco, la trasmissione della RAI di cucina, ma è anche un'imprenditrice della ristorazione, no Ambra? Perché lei si dedica al catering e a attività connesse al cibo, ma non solo. Sì, beh, io ho una mia piccola azienda di catering e poi faccio consulenze per aziende, scrivo ricette di cucina su dei giornali. Diciamo che ormai il mestiere di chef è un po' a tutto tondo, cerchiamo di sfruttare un po' a 360 gradi un po' tutte le opportunità. È anche wedding planner, docente presso diverse accademie di cucina, è insomma tutto quello che gira intorno alla cucina e che sta andando moltissimo, è di tendenza. E noi Ambra stasera l'abbiamo invitata non solo per questo, ma anche perché le sue radici sono in parte in Italia, in parte altrove, è così? Esattamente, mio padre è di origine del Mali, io sono metà italiana e metà africana. Italiana totalmente direi, ma di origine appunto un po' marchigiana e un po' del Mali. E queste sue origini, come ci raccontavamo nelle nostre chiacchierate prima di essere con voi durante la trasmissione, queste sue origini lei non le conosce personalmente, non è mai stata in Mali, no? No, in Mali no, non sono mai stata e spero che sia una delle mie prossime mete, assolutamente. Comunque ho dei parenti, ho ancora, c'è una parte della mia famiglia che vive in Mali. E queste sue origini sono in qualche maniera venute a galla perché è stata scelta come testimonial di una campagna. Ce ne vuole parlare? Sì, e ne sono davvero onorata. Ovvero io già da un anno collaboro con COPI, COPI è un'associazione nel quale io credo moltissimo, ci sono tantissime associazioni che operano nel territorio italiano, ma loro sono quelli che mi hanno dato più affidabilità, cioè sono riuscita realmente a toccare con mano cosa loro di concreto fanno realmente sul territorio e quindi sicuramente è una bandierina di conquista. E quello che fanno lo fanno anche in Mali ed è questo il vostro aggancio principale. Esattamente, esattamente. Quando mi hanno convocato nella loro sede, mi hanno spiegato tutti i vari loro progetti i loro obiettivi, e quando appunto mi hanno illustrato quello del Mali, devo dire che mi sono sentita assolutamente coinvolta, e quindi ho deciso appunto di provare a rendermi utile, ecco. Del Coppia è una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi. Tra l'altro è possibile contribuire fino a domani tramite SMS, chiamare al numero solidale 45528. E per cosa si contribuisce? Per combattere la malnutrizione acuta, che è una vera e propria patologia che colpisce in Mali moltissime persone, in particolare i bambini. L'accesso al cibo per oltre 2 milioni di persone è ridotto a causa di fenomeni come la siccità, anche i conflitti. Insomma, il Mali è uno dei paesi più poveri e dimenticati dell'Africa, e in particolare per la malnutrizione è uno dei paesi attenzionati dalle associazioni. E questo è stato il vostro impegno comune. Pensa che andrà magari in Mali con Coppi? Perché no? Io ne sarei davvero lieta e assolutamente onorata, certo. E la malnutrizione certo è un tema che le sta a cuore, nel senso che il cibo è anche quello di cui lei si occupa principalmente. Esatto. Quindi penso che gli sprechi e la carenza di cibo siano cose sulle quali lei ha riflettuto. Ma certo, abbiamo un dovere morale di non sprecare il cibo, perché fare alta cucina, fare ristorazione, comunicare attraverso la materia prima non vuol dire assolutamente né maltrattarla e né farne cattivo uso. Cattivo uso vuol dire appunto sprecare il cibo o addirittura somministrare alimenti eccessivamente calorici e controproducenti alla salute. Quindi questo progetto di nutrizione mi interessa molto, anche perché poi è un arricchimento professionale che assolutamente in questo momento non deve mancare. Come si coniuga l'occuparsi di alta cucina e quindi anche con dei costi per il cliente abbastanza onerosi e l'impegno per la malnutrizione, che insomma ci porta a realtà completamente diverse? Guarda, è una domanda molto pertinente, perché innanzitutto sono due settori estremamente, a mio avviso, ancora molto paralleli e molto differenti, perché la malnutrizione purtroppo non collima assolutamente con l'alta cucina, ovvero si deve puntare a un'educazione alimentare. L'alta cucina è un modo di vedere la ristorazione, è un modo di interpretare il cibo. L'alimentazione e la nutrizione sono realtà differenti. Quindi a maggior ragione gli chef dovrebbero avvicinarsi sempre di più, e già molti miei colleghi lo stanno facendo, da Massimo Bottura a Gianfranco Vissani, si stanno occupando proprio di questa educazione alimentare, che parte proprio, dovrebbe partire anche da noi professionisti. In effetti è un tema del quale abbiamo parlato anche con degli chef, tra cui Pietro Lehmann, so che lei ha seguito uno stage presso di lui, quello sì, dell'eticità. Sì, dell'eticità del non sprecare e anche dell'eticità dei prezzi, cioè lui diceva mi pongo il tema dei prezzi. Sì, assolutamente, perché sappiamo tutti andiamo al supermercato, tutti andiamo a fare la spesa e abbiamo tutti ben sott'occhio, soprattutto in questo momento storico, cos'è il costo della materia prima, cos'è il costo del cibo. Quindi questi grandi prezzi, questi grandi ricarichi alle volte sono giustificati nei grandi ristoranti da una grande sapienza, una grande tecnica, un grande staff, la location, ma anche e soprattutto da un bien vivre. E questa cosa devo dire che i colleghi con 2/3 stelle la stanno molto mediando, ovvero si può avere una grande cucina di elite senza avere necessariamente dei costi di materia prima altissimi. Quindi il valore dello chef si misura anche nella propria capacità di come sa trasformare l'alimento ed è come lo sa anche riproporre poi alla propria clientela. Ci fermiamo brevemente, torniamo a parlare tra pochissimo di cucina, ma anche e soprattutto delle origini della nostra ospite Ambra Romani. Tra pochissimo restate con noi. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! That's the story of... That's the glory of... As long as there's the two of us, we've got the world and all its charms. And when the world is through with us, we've got each other's arms. You've got to win a little, lose a little, and always have. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera siamo con una chef, Ambra Romani. Che piatto ci ha portato? Allora, un piatto molto semplice, perché secondo me tante volte non c'è necessità di sbalordire o strabiliare. Secondo me riscoprire dei sapori molto semplici e degli alimenti anche facilmente riperibili da poter riprodurre a casa, credo che in questo momento sia un po' la formula vincente. Quindi io vi propongo un semplicissimo risotto, che il riso è proprio l'alimento base di tutta la popolazione africana, di moltissimi paesi, di moltissimi continenti. Il riso lo ritroviamo, è un denominatore comune, no? In tutti i continenti del nostro pianeta. È un alimento di origine poverissima, da una manciata di riso le donne africane con tutta la loro sapienza, la loro tenacia riescono a tirar fuori veramente il cibo di una famiglia. E quindi io vi vorrei proporre un risotto con la buccia di limone, semplicemente con la zesta, la parte gialla del limone, con un brodo leggerissimo di verdure e poi l'arricchimento, che cosa sono? Le banane banane fritte, perché è un altro tipico dell'Africa, soprattutto del Mali. Ci sono varie tipologie di banane, ce n'è una che si chiama Loko, che è una banana che assomiglia un pochino al sapore alle nostre patate, quindi friggendola, leggermente infarinata, questa assomiglia quasi a una chips, a una patatina fritta. E quindi parliamo appunto di alimenti semplici, puliti, con due o tre elementi, quindi un risotto bianco fatto con un brodo vegetale, naturalmente condito sempre alla nostra maniera italiana, quindi un goccino di olio, un pochino di burro e un pochino di parmigiano, tanta buccia, la zest, solamente la parte gialla del limone, alla fine guarnito con queste chips di banane fritte. Of actions, walking on the sky of my dreams. Come, come, my baby, come, and we show you the world. In che maniera e quanto queste origini africane l'hanno condizionata, ad esempio nella cucina, nei gusti, nei profumi? Ma sì, parecchio, perché purtroppo, anzi per fortuna, devo dire che il nostro DNA poi ti sorprende e lo ritrovi nel momento in cui non te lo aspetti. Io mano a mano nella mia carriera di cuoca ho riscoperto proprio quei gusti, anche i prodotti, perché adesso diciamo che il commercio è molto più misto, quindi se 20 anni fa c'era una grossa difficoltà nel reperire alcuni materiali, adesso è molto più facile, quindi le verdure un po' più particolari e soprattutto le spezie, ecco, io amo moltissimo le spezie, che ben dosate devo dire stanno bene un po' dappertutto. Fuori dalla cucina, cosa di queste origini l'ha condizionata in positivo o in negativo? Le mie origini africane mi hanno portato anni fa, 10 anni fa circa, a sposare un uomo africano ed avere una bellissima bambina cioccolata, e quindi questo devo dire che è stato un po' il mio ritorno alle origini. Sicuramente questo è la parte che mi ha avvicinato di più e che è comunque il mio quotidiano. La conosciamo appunto per la sua partecipazione alla Prova del Cuoco, la televisione fa miracoli, alla... però come dice quella canzone, come dice quella canzone, il video uccide le star della radio, e quindi insomma noi rimaniamo nel nostro angolo privilegiato di cui siamo fieri. Come è stata recepita invece la sua esoticità, diciamo anche il colore della pelle, in televisione? Come un ingrediente in più oppure come un qualcosa di diverso e quindi che poteva subire un pregiudizio? Io all'inizio mi sono sentita vincente e mi sento vincente ogni giorno che mi viene data questa possibilità. Sono molto fiera di essere una donna di colore, sono molto fiera del colore della mia pelle e delle mie origini, e soprattutto di riportarle in televisione. In televisione mi rendo conto solamente come aspetto fisico, perché poi io sono cresciuta qua in Italia, quindi ho una parlata, una cadenza, un accento tipicamente italiano, e secondo me questo fatto di essere esteticamente esotica e invece avere questa voce, questa parlata molto del centro Italia, concedetemelo, secondo me ha avvicinato moltissimo le persone, e noto affetto delle persone che mi seguono, le persone che mi incontrano per strada, e di questo ne vado molto orgogliosa, sono molto lusingata. Quindi una possibilità. Sicuramente in una trasmissione popolare la presenza, la partecipazione di una chef di colore italiana può aver anche inorgoglito tante ragazze italiane di colore oppure di seconda generazione o comunque con radici in qualche maniera altrove. Lei sente questa responsabilità di essere un modello alla fine? No, un modello no, però un po' l'apripista, questo sì, me lo voglio riconoscere, e devo dire che sono molto orgogliosa, perché spesso la donna esotica è vista più che altro per la sua fisicità, e nella nostra televisione italiana ci sono tantissime donne di colore, tantissime donne straniere che vengono prese per l'aspetto fisico. Ecco, quindi io dico alle ragazze... figli di coppie miste, ragazze italiane che hanno colori diversi della pelle, che si può andare in televisione anche con un grembiule, senza grandi scollature, senza grandi tacchi, e facendo il proprio lavoro e portando loro stesse. E di questo veramente ne vado molto fiera. Ambra, io so che il suo amore per la cucina è nato anche perché è nipote di un famoso pasticcere umbro dei primi del Novecento. Sì, pronipote, esattamente, era il papà di mia nonna, sì. Beh, ovviamente io per termini di età non l'ho mai conosciuto direttamente perché era il padre di mia nonna, però dai racconti e addirittura qualche primo filmato in bianco e nero, sicuramente è un uomo, un grandissimo lavoratore, come un po' il denominatore comune della mia famiglia, tutti grandi lavoratori, ognuno per la sua strada. E questo bisogno pasticcere devo dire che mi ha lasciato tantissimo in eredità, soprattutto libri e ricette di pasticceria che mia mamma tiene ancora con grandissimo orgoglio, e poi me le passerà con gli anni. La cucina maliana risente di influenze senegalesi e nordafricane, basata essenzialmente sul miglio, sul sorgo, sul fonio e sul riso, presenta pietanze come il couscous, che accompagna la carne, solitamente pollo, manzo e montone, o il pesce del Niger insieme a verdure cotte. A seconda delle regioni e delle diverse culture, cambiano i cereali usati o i condimenti. Il piatto principale dei Bambara è uno sformato simile a una polenta non salata, detto to, a base di cereale. Al to viene aggiunto un condimento a base di carne, di pesce, di salsa di arachidi o di gombo, ricavata da un arbusto locale. Altri piatti tipici sono il riso con sugo a base di pasta di arachidi e il riso gras, riso con carne di agnello. Si usa molto fare un bollito, detto appunto bouilli, di riso, oppure di miglio o di mais, addolciti da zucchero e latte. Tra le bevande non può mancare il tè alla menta, bevuto molto forte, e il cui rito si ripete molte volte durante il giorno. Dal miglio si ricava il dolo o birra di miglio, una bevanda fermentata diffusa in tutti i paesi sahariani e nel Pays d'Ogon. Ricordiamo inoltre gli ottimi succhi di zenzero, gingimbre o ibiscus, bisap o dableni, di mango, di tamarindo. Particolare una bevanda fatta con foglie di china, quenkeliba, che si utilizza molto durante il periodo del Ramadan per rompere il digiuno al tramonto, e un particolare estratto dal frutto della palma, una bevanda zuccherina dal retrogusto di uova che assume gradazione alcolica mano a mano che fermenta. E invece l'amore pratico per la cucina come l'ha coltivato? Quando era piccola, quando è cresciuta? Sì, da bambina, perché a casa mia si è sempre mangiato molto bene, mia nonna intratteneva tutti i parenti, la famiglia, faceva delle grandi tavolate, quindi avendo avuto una nonna sapiente che sapeva preparare delle ottime ricette, devo dire che è stato sicuramente un po' quella miccia che ha acceso quella passione, e poi perché io sono una golosa e quindi naturalmente ho assecondato i miei desideri. Invece di suo padre, ha ricordi legati alla cucina? Perché mio papà, come tutti gli uomini africani, sapeva fare tutto. Era un uomo molto dinamico, molto curioso a 360 gradi, quindi era anche un ottimo cuoco. E mi ricordo da bambina che lui cucinava 2 o 3 cavalli di battaglia ed era inamovibile. Quelli li faceva lui e nessuno poteva mettere becco in cucina. Quindi infatti un po' il carattere l'ho preso da lui. So, Ambra, che lei sta preparando una trasmissione che andrà in onda tra poco. Sì, esattamente, sulla 8 sarò assente per qualche mese dalla prova del cuoco e mi sto dedicando a questo nuovo progetto che è un talk TV, si parlerà anche di cucina, ovviamente cucinerò io, però è un programma di intrattenimento tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 su TV8, The Real. Invece la sua collaborazione con Copy continuerà? Assolutamente. Quando si sposa un progetto è anche poco sensato lasciarlo cadere nel nulla, come spesso accade. E quindi in queste cose ci va costanza, perché l'impegno deve essere costante, perché l'obiettivo è impegnativo da raggiungere. Ma abbiamo tanti sostenitori, quindi siamo molto fiduciosi. E allora sentiamo la ricetta che Ambra Romani ha donato a Copy e intanto la ringraziamo. Grazie Ambra, in bocca al lupo per la trasmissione. Grazie a voi, grazie a tutti e mi raccomando, donate, donate, donate, perché si può fare. Biscotti vegani con fiocchi d'avena e cacao amaro. 100 g di farina di mandorle. 100 g di olio di semi di mais. 80 g di zucchero di canna integrale. Un cucchiaio di cacao amaro, un cucchiaino di lievito per dolci vegan, un cucchiaio di latte di soia, un pizzico di sale integrale. Frullare i fiocchi d'avena nel mixer, versarli in una ciotola con tutti gli altri ingredienti, amalgamare bene con le mani e lasciar riposare in frigo per 12 ore. Preparare delle palline di circa 22 grammi l'una, metterle sulla teglia da forno ricoperta da carta forno e schiacciare leggermente. Devono diventare dei dischi. Infornare a 180 gradi per 10-15 minuti e lasciar raffreddare. Grazie a voi per essere stati all'ascolto. Ci risentiamo sabato prossimo sulle frequenze di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Se volete scrivermi per commenti, consigli, anche critiche, vifurlanetto@radio24.it. Buona serata a tutti. Ciao, a sabato prossimo. You've got to give a little. That's the glory of love.